siamo nel campo di Muscaro. Vedi come lo schiaccio io qui. No, questa coppa da 10 lo chiamo e scappi. Se avete non apportato per non farmelo sentire. Ma ti manda a Gigino dove si faccia la faccia. Perciò di Gigino ci sei. Ma si dice che sono tanto fugati là. Persiste. Aspettate. Attenzione Gigino Vulcano. Gigino 45, K 45, così si dà Dronchellucci. Un secondo, no, sono Angelino. Ma ha detto a Dirvino che li punirvi da cambiare assassi era portato. Ma lui da pure per venire, no, cioè, da queste parti dovrebbe venire. E io si tengo, ha detto che si aggrungano in effetti. Dove sei? basso dalla porta 80. Quando parla di tu per non farmi sentire a te, metto dalla porta 80. Positivo, ma ne poteva approfittare perché io ero a 40-45 km di distanza, capito? Ne poteva approfittare, capito? Allora, la mia stava c'è il televisore, va. Se l'avrebbe preso Alessandro, un paio di cambi posso andare a tirarmi l'apparato mio, lo guardiamo, se mi piace, vediamo un po', va. Dalle, te sto dicendo già cos'è che ci vuole per me qua, ci vuole perché ci vuole, perché non va bene a mettergli le cose. I primi pollelli avanti sono uno, due, ma è anche il terzo. Sono lenti, lenti, lenti, lenti, sono lì, sono troppo severi come ha lavorato. Vai usurato, vai un po', capito. E diciamo che adesso i pomini diventano anche trasparenti per il Midland, se sono come quelli dell'Alan 48, i pomini diventano anche trasparenti con la luce blu che si accende e li fa tutti blu. Un bel bello, sono le visite su internet, non so se tu li hai mai visti lui. Ho provato un baracchino, non so se l'avete ascoltato, un giorno mi faceva ridere, sono preparato sui continenti con quei pomelli lì. Ce l'avevo in prova e non è piaciuto a nessuno, guarda, a nessuno. Giovannino originale ci ha ordinato così, c'ha tutti i pomelli, compreso quello dei canali, e anche quello è trasparente, che si illumina tutto il blu. Cercava la luce ti accecca, è una cosa impressionante, una volta mette un pezzo di traccia sopra, perché ti accecava. Figurati. No. Io ho visto su internet che vendono tutto il kit, vendono anche il kit per modificare i Midland, c'è il doppio modulatore, lucette, il bip, non so che cosa, tutto è 100 euro per modificare il Midland, ma bisogna avere anche l'arte di farlo, bene?